l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddi, eccoci qua ancora con l'altra Europa come ogni settimana per raccontare l'Europa delle storie, delle persone, delle opportunità. Come sempre vi ricordo le coordinate digitali, il nostro sito radio24.it oppure Twitter e Facebook, l'account, il mio personale Federico Taddia, lì tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi è il 25 marzo, è una data importante, sono i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, il primo embrione di questa Europa. Ovviamente parleremo tanto di questa giornata, del significato, della storia che è stata e della storia che sarà o che potrebbe essere. Però, vista anche la settimana, non possiamo non partire da Londra. Peace train sounding loud, glide on the peace train. Gisekaya, Giseka, come on peace train. I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be, someday it's going to come. I've been smiling lately, dreaming about the world as one. And I believe it could be, someday it's going to come. Someday it's going to come, come take me home again. Come on the peace train. Someday it's going to come, come on the peace train. Come take me home again. Una Londra ferita, una Londra colpita, una Londra presa di mira dai terroristi, una Londra anche che sta vivendo i venti della Brexit, le tante discussioni, le tante contraddizioni anche, i passi, le scelte, il desiderio di scappare da questa Europa, ma poi le frenate. Insomma, un lungo percorso che anima ovviamente nel bene e nel male la quotidianità della capitale e non solo. Di quello che sta accadendo in queste ore a Londra ne parliamo con Marco Liviero, lo abbiamo già conosciuto, è docente di letteratura inglese all'Eton College e abbiamo il piacere di averlo qua con noi all'Altra Europa. Ciao Marco. Ciao, tutto bene. Quella di Marco è sempre una visione particolare, la visione di un italiano che vive a Londra, di un professore di letteratura inglese, quindi che immerso in questa cultura, e poi il contatto quotidiano anche con i ragazzi che frequentano il college. Marco, cos'è Londra oggi? Londra oggi è quello che era all'indomani del 7 luglio, quando ci sono stati gli attentati, mi pare nel 2005. Sì. È una Londra ferita che si aspettava questo attacco, è una questione di quando, non di se, ma che reagisce con molta fermezza e con molta calma. È davvero una questione di sangue freddo e loro lo sanno dimostrare in questi momenti terribili. Mm-hmm. Ma è una Londra che si sente più forte perché è più sola o si sente più debole perché è più isolata rispetto al resto d'Europa? Ma in questi momenti qualsiasi siano le ragioni per l'isolamento, se di isolamento poi si tratterà dopo Brexit, credo che Londra senta moltissimo la vicinanza di tutti gli altri paesi. Non so se hai visto la porta di Brandeburgo illuminata, sì, come una Union Flag, lo stesso è successo a Tel Aviv. Quindi sono momenti in cui l'Europa è unita al di là dei trattati politici. Ma questa risposta forte, questa risposta orgogliosa, che origini ha secondo te? Secondo me ha radici profonde che hanno un po' a che vedere con un isolazionismo orgoglioso degli inglesi, e che loro sentono molto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, quando da soli si sono sentiti l'unico baluardo della democrazia rispetto a un'Europa che era invasa dal fascismo o dal comunismo. Mm-hmm. E quindi è una situazione che da un certo punto di vista si ripete nel loro atteggiamento, nel senso che mentre comprensibilmente l'Europa vede l'Unione Europea come un baluardo della democrazia, un modo per evitare guerre future e estremismi futuri, l'Inghilterra viene da una prospettiva storica molto diversa. Loro durante la guerra da soli contro l'Europa fascista erano così, isolati e coraggiosi. È un po' un mito, senz'altro. È certo. Una lettura, ce ne sono altre, però è una lettura interessante che va considerata. Marco, questa quotidianità è fatta di attentati. In questa settimana sicuramente l'hai ritrovata all'interno della scuola. Quali sono state le reazioni dei tuoi studenti? Ne avete parlato? Ne abbiamo parlato un po', sì. C'è una specie di... non è, indifferenza è la parola sbagliata, però c'è un senso di... Così si accetta una situazione che ci si aspettava e si sa che la cosa che vogliono i terroristi è dividere e naturalmente impaurire. Se si fa il loro gioco, li si invita a continuare. Quindi è giusto fare l'opposto di quello che loro vogliono. Londra è aperta, la metropolitana funziona, il Parlamento ha le porte aperte a chiunque voglia andare a vedere un dibattito e se ci saranno inevitabilmente dei rischi, come ci sono in tutte le democrazie, l'alternativa è molto peggiore, quindi è giusto che si sia reagito così. E invece questo sentimento di rassegnazione, che poi è una rassegnazione positiva, costruttiva, no? Indifferenza o rassegnazione la si vive anche nei confronti di Brexit? Sì, ma non direi che c'è un sentimento di rassegnazione, c'è una reazione che è molto pragmatica, è una realtà Brexit, quindi bisogna cercare di assicurarsi che sia un successo per tutti, insomma. Ed è giusto che sia così. Chiaramente il primo ministro non vuole scoprire le proprie carte quando si sta per cominciare i negoziati, ecco, perché chiunque faccia un gioco d'azzardo, in fondo un negoziato è quello, certamente non vuole scoprirsi troppo. Però non direi che c'è un senso di rassegnazione, c'è un senso di pragmatismo e si spera che in fondo alla fine la cosa funzioni, non sarà la tragedia che si dice, secondo me. Ma forse sono troppo ottimista. Marco, in questi giorni, in avvicinamento anche al 25 marzo, appunto festa dei trattati di Roma, si discute molto anche del confronto generazionale, no? La generazione Erasmus rispetto alla generazione dei più grandicelli, visione diversa anche di questa Europa. Spesso si dice che gli allievi dell'Eton College saranno parte fondante della prossima classe dirigente, appunto inglese. Sono orgogliosi i tuoi studenti dei politici attuali? Io spero che tutti i ragazzi e ragazze intelligenti siano i leader del futuro, che vengano da Eton o meno, questo è importante. La politica è vista con un misto di indifferenza da certi, con interesse da altri, come i teenager di tutto il mondo. Come insegnanti è importantissimo che noi evidenziamo l'importanza del coinvolgimento politico, dell'interesse in queste cose, perché la politica forma e dirige il nostro futuro e il loro futuro soprattutto. Io faccio parte della generazione Erasmus, quindi sono senz'altro di parte, ma credo che l'indifferenza in ogni caso è applicata a qualsiasi cosa sia comunque nefasta. Grazie davvero a Marco Oliviero, docente di letteratura inglese all'Eton College. Buon lavoro Marco, alla prossima. Grazie, a presto. Ciao. Un euro post-it e ci fermiamo per il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Convegno sul futuro dell'Unione Europea. In occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, l'Associazione Amici di Zona 2, in collaborazione con la rappresentanza regionale a Milano della Commissione Europea e l'Ufficio Informazione a Milano del Parlamento Europeo, promuove un convegno per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni. Studenti delle scuole milanesi e rappresentanti delle istituzioni europee si riuniranno il 31 marzo nella sede della Regione Lombardia per una tavola rotonda sullo stato dell'Unione Europea e sul futuro che la attende. Tra i relatori interverranno anche Federica Mogherini, alto rappresentante per gli affari esteri della Commissione Europea, l'ex premier Enrico Letta e il professore Alfredo Canavero. L'accesso sarà possibile solo con accredito scrivendo una mail all'indirizzo ufficiostampa.convegno.eu@gmail.com. L'altra Europa. Power in the hand of the worker. of the buses we must pipe on. From the cities and the farmlands to trenches full of mud, war's always been the buses' wiser. Non basta dire che l'Europa non va, bisogna lavorare insieme per cambiarla e fare in modo che sia la casa comune sognata dai padri fondatori. Una frase di Laura Boldrini, presidente della Camera, nella quarta di copertina del suo nuovo libro La comunità possibile, edito da Marsilio, libro col quale vogliamo celebrare, vogliamo festeggiare anche noi oggi, 25 marzo, i 60 anni dei Trattati di Roma, questi 60 anni che ricordano la nascita di questo sogno, l'inizio di un lungo percorso che anche a fatica stiamo vivendo. Abbiamo quindi il piacere di avere qua con noi la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Buon sabato, Boldrini. Sì, buon pomeriggio, come va? Abbastanza bene, grazie. 25 marzo, una data attesa, una data che deve essere qualcosa che vada al di là, vero, del mero simbolo? Beh sì, intanto i simboli sono importanti, però questa deve essere un'occasione in cui si celebra, ma anche si fa un bilancio e soprattutto si cerca di riflettere su come andare avanti, perché indubbiamente questi 60 anni cadono nel periodo più critico dell'Unione Europea, o comunque dell'Europa, di questa comunità, periodo in cui tanti usano lo scontento dei cittadini per immaginare una fuoriuscita dall'euro o dall'Europa stessa, e quindi un momento di crisi in cui c'è bisogno di rilanciare una nuova prospettiva, di dare più speranza ai nostri concittadini, certo, attraverso però anche una direttrice diversa, perché l'Europa così com'è non risponde più ai bisogni delle persone, quindi è chiaro che o si cambia o si muore, e io credo che noi abbiamo il dovere di cambiarla, perché abbiamo bisogno di questa casa comune se vogliamo continuare a avere un peso sulla sfera globale, se vogliamo contare, se vogliamo essere competitivi. Quindi è nell'interesse dei nostri figli riuscire a cambiare questa Europa, però appunto non c'è molto tempo da perdere. Boldrini, userei il suo libro come una sorta di macchina del tempo. Andiamo indietro, sì. Prima. Cos'è successo 60 anni fa? Qual era il clima e qual è l'importanza di quell'atto, di quel trattato firmato il 25 marzo, appunto, di 60 anni fa? Beh, quel trattato fu, diciamo, la chiusura definitiva del secondo conflitto. Con quell'atto si chiude definitivamente la Seconda Guerra Mondiale e le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. Quindi fu un atto simbolico fortissimo, e fu un modo in cui appunto i paesi decisero di superare le divisioni del secondo conflitto mondiale, mettendosi insieme con l'obiettivo di crescere economicamente insieme. Sapevano bene, chi firmava quel trattato sapeva bene, che appunto il mercato comune, diciamo, l'obiettivo economico di quel momento non era l'unico obiettivo, perché c'era il progetto politico dietro a quella comunità economica europea, cioè i padri fondatori volevano cominciare da una comunità economica per arrivare poi a un'unione politica, cioè a creare un unico spazio condiviso, quindi un unico, in qualche modo, un'unione federale, quindi attraverso un'integrazione politica. Quell'integrazione politica ancora non è stata portata a compimento, per questo il progetto europeo è ancora incompleto, è monco, e per questo non funziona, perché ci siamo fermati prima per paura di non riuscire a mantenere lo status quo. Per paura che questo fosse l'unica realtà possibile, ci siamo fermati anche dopo le bocciature dei referendum in Francia e in Olanda. E però questo ha creato tanto scontento delle persone verso l'Europa. Quindi adesso è doveroso riprendere il cammino. I 60 anni come un'occasione per rilanciare i paesi che vorranno esserci, dovranno avere la possibilità di andare avanti. E chi invece ritiene che questa sia l'unica dimensione per il momento può rimanere in una situazione che comunque dimostra tutti i propri limiti. Quindi io penso che i 60 anni, insomma, questa occasione di celebrazione debba essere anche l'inizio di un percorso nuovo, magari con numeri più contenuti, magari non con tutti quanti, ma è importante che ci sia una scossa, altrimenti qui si rischia veramente di perdere tutto sotto i colpi dei populisti che vogliono disgregare irresponsabilmente l'Unione Europea perché la ritengono il male di tutti i mali. Ecco, l'alternativa però non ce l'hanno. Assolutamente. E io vorrei capire, vorrei chiedere a questi qui come pensano poi di poter considerare i nostri paesi che sono medio piccoli, come poterli porre sulla sfera globale in termini di competizioni con i grandi giganti. Quindi queste sono ricette che possono far presa, ma sono assolutamente fallimentari. La comunità possibile è il titolo del suo libro, quindi la possibilità c'è, è sottolineata, è evocata. C'è bisogno di altri padri fondatori e madri fondatrici per i prossimi 60 anni? Ecco, bravo che ha aggiunto anche le madri, mi sembra un'aggiunta doverosa. Io penso che c'è bisogno in questo momento di immettere molta energia nel progetto europeo. Penso che sia uno dei pochi progetti in cui vale la pena spendersi, perché un progetto che nasce con i principi di pace e di giustizia sociale non può diventare un progetto invece che genera ingiustizia sociale, come sta accadendo adesso. E allora vale la pena rilanciare quel progetto e fare in modo che cambi quello che che ritorni a essere quello che doveva essere, e farlo però in un'ottica di condivisione con i cittadini. I cittadini devono essere parte attiva, devono dire loro come la vogliono questa Europa. Io qui alla Camera ho fatto una consultazione pubblica online con 7 domande ai cittadini elaborate dall'Istat per sapere da loro, dai cittadini, che cos'è che non va di questa Europa e come la vorrebbero. Ecco, da quelle risposte poi abbiamo elaborato un rapporto in cui è chiaro quello che i nostri cittadini vogliono. Un comitato dei saggi ha aiutato in questa lettura, e quello che vogliono i cittadini è continuare a rafforzare l'Europa, renderla più capace di rispondere alle aspettative e soprattutto investire di più nel lavoro, nella crescita e nell'innovazione. Questo ci chiedono i nostri giovani, di essere più capaci di dargli un futuro. Grazie davvero alla Presidente Laura Boldrini, La comunità possibile, lo ricordo il titolo del libro appena edito da Marsilio. Buon 25 marzo, Presidente. Grazie a voi. Cittadini devono dire che Europa vogliono, questa è stata la richiesta di Laura Boldrini. E tra i cittadini ci sono i giovani, sempre più desiderosi di far sentire la loro voce. Lo hanno fatto anche in questi giorni, in occasione del 25 marzo, con la presentazione di un importante manifesto. Ne parliamo con Matteo Scotto, del Consiglio Scientifico del Centro Italo-Tedesco per l'Eccellenza Europea, Villa Vigoni. Buongiorno Matteo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie a voi e complimenti per la trasmissione, che seguo sempre con grande interesse. Grazie Matteo. Allora, cosa avete combinato? Che cos'è questo manifesto? Allora, questo manifesto, noi a Villa Vigoni 4 mesi fa abbiamo deciso che in clima celebrazioni era importante, soprattutto per i giovani europei, non solo ascoltare, ma è arrivato il momento per loro di dire qualcosa, quindi di farci ascoltare. Quindi abbiamo riunito 18 europei, italo-tedeschi, per nostra natura, ma anche di altri paesi, e li abbiamo fatto scrivere un manifesto. Io ho avuto l'onore appunto di presiedere questo comitato, diviso in tre capitoli, tre gruppi di lavoro. Sì. Uno sulla per ripensare la narrativa dell'integrazione europea, uno per ripensare l'identità, o le identità meglio, plurale, europee, e l'altro per riscrivere un disegno istituzionale che, diciamo, noi riteniamo più efficiente, trasparente e legittimo di fronte ai cittadini europei. Questo manifesto l'abbiamo in 4 mesi, in modo veramente veloce, chiuso e presentato all'ambasciata tedesca l'altro ieri, alla presenza di molti giovani, e questo ci ha reso veramente felici, e anche di molte personalità della politica italiana e tedesca, ma anche europea. Questo ci fa altrettanto piacere. Romemanifesto.eu, questo è il sito per conoscere, leggere firmare. Il manifesto e firmare. Matteo, ma così una domanda di chiusura: La visione dei giovani rispetto all'Europa è diversa, secondo te, rispetto a quella, per esempio, appunto, dei politici o delle generazioni precedenti? Ci sono differenze sostanziali? Sicuramente sì. Io non credo che noi, così giovani europei, dobbiamo vergognarci di dire che siamo cosmopoliti e in grado di approcciare la diversità culturale, linguistica, in modo più semplice che la generazione precedente. Questo però non vuol dire rinunciare alla propria identità nazionale, regionale o locale. L'identità europea è per natura un'identità dove convivono tutte le altre, e la cittadinanza europea è un esempio di questo. Noi siamo cittadini europei, ma anche complementare, siamo anche cittadini italiani o tedeschi o croati. E importante sono le istituzioni, che in questo modo qua, per la grande domanda politica che c'è da parte nostra, non funzionano e vanno al più presto riformate se l'Unione Europea vuole continuare ad andare avanti. E dentro il manifesto c'è scritto esattamente qual è per noi il disegno istituzionale adeguato a questa nuova Europa, così, corrente politica. Esatto. Un grazie ora a Matteo Scotto. Ricordiamo romemanifesto.eu, il portale per leggere e sottoscrivere il manifesto. Buon 25 marzo, Matteo, ciao. Grazie a voi, buona Europa, arrivederci. Noi ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. Who is afraid of the future? Who has got into a physical conflict with someone? What kind of sound do you hear from your neighbors? Who works regularly outside of the country in which they are based? 3, 2, 1, now! Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Le voci invece che state ascoltando sono voci di chi sta giocando con l'Europa e sta tentando di rispondere a una domanda. Questa domanda è: quanta Europa c'è in tutti noi? Lo sta facendo con un meccanismo teatrale ideato da Rimini Protocol, un collettivo artistico, uno dei più importanti in Europa, che sta portando questo progetto, una sorta di gioco di ruolo. Si chiama Home Visit Europe, quindi l'Europa a domicilio. Ne parliamo con Valentina Kastrunger, fondatrice e direttrice di Zona K, che hanno fatto il format di fatto loro e lo stanno portando adesso qui in Italia. Ciao Valentina. Ciao, ciao a tutti. State facendo giocare con l'Europa il vostro pubblico in questo periodo? Sì, 2 giorni fa c'è stata la prima, giovedì. E oltre alla prima noi abbiamo partecipato a qualche prova ed è stato molto emozionante, perché è assolutamente imprevedibile. Il pubblico sta giocando. Ecco, cosa succede? Qual è il meccanismo? Il meccanismo è il seguente: si viene invitati, il pubblico, dopo aver acquistato un biglietto, riceve un SMS in cui gli viene dato l'indirizzo dove si svolge il gioco, perché il gioco si svolge nelle case private. Partendo da questa idea, che personalmente trovo molto azzeccata, che l'Europa è un'idea molto astratta, lontana da noi, o perlomeno da molti così percepita, quindi per parlarne cosa facciamo? La prendiamo e la mettiamo dentro le case private, nella più piccola unità che ci può essere di questa nostra Europa. Quindi questi 15 spettatori, o meglio questi 14 spettatori più il padrone di casa, si ritrovano in casa del padrone di casa attorno a un tavolo. Sul tavolo è disegnata un'Europa, una mappa dell'Europa, e attorno a questo tavolo poi si gioca. Succedono cose, si interagisce, c'è anche una torta finale che è un po' il risultato di questa unione o di questa disunione. Sì, è proprio l'idea è proprio quanta fetta di torta ti porterai a casa dopo aver giocato. Hai guadagnato punti, ne bastano per portarsi a casa la torta. Ed è un gioco che oscilla molto tra diciamo, alcuni elementi privati, o personali più che privati, scusate, e messi in relazione a quello che è il meccanismo dell'Europa, o come, come usare dei meccanismi personali o relazionali tra le persone per capire quali sono dei meccanismi tra gli stati, in qualche modo, come un grande risico senza carro armati. E come ne esce l'Europa da questo gioco? Beh, molto interessante, perché la bravura che hanno avuto loro sul filo del rasoio è quella di non dare un giudizio a priori. C'è una macchinetta che viene chiamata Peacemaker, che dà il ritmo del gioco e fa sputare i bigliettini, per cui io, spettatore, prendo il bigliettino, leggo i contenuti di questo bigliettino e devo rispondere a delle domande. E ogni tanto la macchinetta sputa anche dei pezzi di storia dell'Europa. I pezzi che sputa non sono sempre positivi, ci sono le tappe di costruzione dell'Europa che è stata molto faticosa. Quindi il gruppo non propone una soluzione su Europa positiva e Europa negativa, è il gruppo di giocatori che sta giocando in quel momento che determina con le proprie azioni se questa Europa sta funzionando o non sta funzionando. Europa a domicilio, homevisiteurope.org, il sito per avere le informazioni sul progetto, oppure zonak.it, il sito per conoscere il calendario degli eventi. Grazie davvero Valentina, buona Europa. Grazie, anche a voi. Europost-it. Inaugurazione della mostra L'Italia in Europa, l'Europa in Italia. Attenzione appassionati d'Europa! Nell'ambito delle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma, ha aperto la mostra L'Italia in Europa, l'Europa in Italia, organizzata dal Dipartimento per le Politiche Europee in collaborazione con l'agenzia ANSA. L'esposizione contiene più di 100 immagini, video e testimonianze originali che raccontano il percorso di costruzione dell'Unione Europea e il ruolo che l'Italia ha giocato in questa storica costruzione. La mostra è aperta al pubblico ed è visitabile tutti i giorni a Roma, nell'aula ottagonale delle Terme di Diocleziano, presso l'ex planetario. Dopo il 30 marzo sarà esposta anche a Milano e Ventotene. Per informazioni visitate il sito politicheeuropee.it. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go and knock on us so hard. It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Spesso alla domanda cosa ha fatto di buono l'Europa, perché serve l'Europa, una delle risposte istintive, quella importantissima, no? Dedicata alla pace, grazie all'Europa c'è la pace. Mi piaceva sottolineare questo aspetto e abbiamo il piacere di farlo con Silvia Fontana, dottoranda del Centro per i Diritti Umani dell'Università di Padova e ambasciatrice di pace dell'Istituto for Economics and Peace. Ciao Silvia, benvenuta all'Altra Europa. Ciao. Grazie della chiamata. Con Silvia ci siamo conosciuti in occasione degli Stati Generali della generazione Erasmus, proprio perché è una anche delle coordinatrici delle piattaforme in atto, no? Perché questo lavoro sta continuando. Esatto, confermo. Ci sono circa 200 ragazzi in totale che stanno tutti insieme ragionando sui temi fondanti l'Europa. Nel mio caso si tratta della cittadinanza europea, il vero significato della cittadinanza europea. Un dibattito che porterà poi alla realizzazione di un documento che credo che in occasione della Festa dell'Europa verrà consegnato ai governanti. Dibattito acceso quello sulla cittadinanza, Silvia? Assolutamente, tra i giovani ci sono coloro che vogliono focalizzarsi un attimo su azioni solo per gli studenti e invece altri che dicono che sarebbe più interessante portare un po' il dibattito anche ai cosiddetti meno giovani, che sono un po' quelli più difficili da portare sui temi europei di solidarietà, umanità, pace, rispetto degli altri. Silvia, prendiamo questa parola pace. Si dà per scontato che ci sia la pace in Europa. Qual è il legame tra pace ed Europa? Guarda, io ti posso solo dire, e il solo è un eufemismo in realtà, che è proprio grazie all'Unione Europea che abbiamo mantenuto fino ad ora uno stato di relativa pace in Europa. Ricordiamo che a livello di area geografica l'Europa è appunto l'area più pacifica, contro invece purtroppo dobbiamo ricordare l'area meno pacifica, che è chiaramente quella medio orientale, ricordata drammaticamente dalla situazione siriana, ecco. Ma i nazionalismi che soffia forte il vento del nazionalismo in Europa, tante voci diverse, tante esperienze diverse, però è innegabile, possono mettere a repentaglio questa pace? Assolutamente, ti ringrazio per questa tua osservazione, perché grazie anche agli studi dell'istituto col quale io collaboro si parla molto spesso di pace. Ma cos'è veramente la pace? Non è certamente solo un'assenza di conflitto. La pace si deve costruire giorno per giorno, è una pace di lungo periodo, e quando si parla di pace di lungo periodo ci sono dei fattori, no, sui quali noi dobbiamo lavorare, e uno di questi, sai qual è? È proprio il capitale umano. Un altro è il rispetto degli altri. Chiaramente i nazionalismi stanno veramente toccando proprio questi fattori di pace di lungo periodo, ed è veramente questo il dramma. Per quello che sono estremamente contenta di parlare con i ragazzi sul tema della cittadinanza, perché è da lì che dobbiamo ripartire per ricostruire, sai, i veri principi fondanti dell'Unione Europea, che sono l'umanità, la solidarietà e il rispetto degli altri, di fatto, la pace. Certo che davanti alle voci urlanti di chi vuole invece i muri, di chi vuole le divisioni, quello che proponi tu è un lavoro lento, un lavoro silenzioso, un lavoro fatto di quotidianità, un lavoro che dovrebbe essere fatto dove? Proposto da chi? Allora, guarda, faccio parte di questi pazzi, ma in maniera carina lo dico, ovviamente un po' forse lo sono, che vanno dove c'è gente che magari la pace o comunque anche i conflitti, la guerra non la vivono. Io parlo, per esempio, settimana prossima io sarò a Salerno, parlerò con gli studenti, parlerò dell'SDG numero 16, che è quello sulla pace e la costruzione di istituzioni pacifiche. Quindi io parlo agli studenti, parlo anche agli imprenditori, perché noi dobbiamo lavorare con tutte le diverse, sai, i diversi gruppi, no, della nostra società, perché è solo insieme che possiamo cercare di cambiare questa, diciamo, invece di creare muri dobbiamo cercare di creare ponti anche tra le varie diverse comunità della nostra società. Questa è una delle voci di chi crede nell'Europa, di chi l'Europa cerca di difenderla, costruirla, realizzarla giorno per giorno, al di là della teoria, al di là della retorica. Un grazie davvero a Silvia Fontana, buon lavoro con i compagni di viaggio di Garage Erasmus. Ci ritroveremo sicuramente in occasione della Festa dell'Europa per andare a raccontare il frutto dei vostri ragionamenti e delle vostre riflessioni. Ciao Silvia, buona Europa. Grazie, buona Europa anche a te. Ciao a tutti. Adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Workshop Mi Ambiento. Sei interessato alle tematiche green e alla sostenibilità? La Fondazione Istud, insieme alla rappresentanza regionale della Commissione Europea a Milano, lancia l'evento Mi Ambiento, che mira ad elaborare un bilancio delle eccellenze in ambito ecologico per individuare una nuova classe dirigente green. Il workshop è in programma per il 5 aprile al Centro Svizzero di Milano e verterà su temi come la sostenibilità 2.0, il marketing green dell'industria 4.0, la sharing economy, il crowdfunding, l'urbanistica sociale e la circular economy. L'iscrizione è gratuita, ma attenzione, perché i posti sono limitati. Tutti i dettagli nella sezione eventi del sito istud.it. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento l'altra Europa. Deixi-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorriso a não chorar. Deixi-me, preciso preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Sonorità extraeuropee, in particolare sonorità brasiliane, per chiudere questa puntata, puntata in gran parte dedicata al 25 marzo, alla festa dell'Europa, ma lo sapete, insomma, se ci ascoltate, sapete bene che noi mettiamo la cultura come tassello fondante di questa Europa e quindi ci piaceva l'idea di chiudere proprio con... questo punto di vista, dal punto di vista culturale, anche con una sfaccettatura creativa. Si chiama Primavera Letteraria Brasiliana, un festival che è iniziato pochi giorni fa, il 21 marzo, si concluderà il 4 aprile in 4 paesi europei, Francia, Belgio, Portogallo e Spagna. Di cosa si tratta? Lo chiediamo a Roberto Parmigiani, scrittore e protagonista del festival. Ciao Roberto! Ciao Federico e ciao a tutti. Buon sabato, ti trovi a Parigi in questo momento? Esatto, sono a Parigi. Uh-huh. E in quanto scrittore brasiliano, no? Sì, in quanto scrittore brasiliano, nel senso che io sono italiano, ma dopo aver vissuto 2 anni in Brasile e aver imparato il portoghese, ho iniziato a scrivere anche direttamente in portoghese, non solo in italiano. E questo mi ha portato a pubblicare direttamente in Brasile e in questo momento essere stato invitato come scrittore alla Primavera Letteraria Brasiliana. Ma come mai una Primavera Letteraria Brasiliana nel cuore d'Europa? Questo evento è organizzato da professore Leonardo Tonus, che è un professore di letteratura lusofona dell'Università La Sorbona di Parigi, che nel tempo ha voluto creare un evento che potesse avvicinare gli autori principalmente brasiliani, ma in generale lusofoni, agli studenti che studiano letteratura portoghese a Parigi. E la sua idea era proprio un'idea pedagogica, fare in modo che ci potesse essere un incontro reale con la letteratura concreta e aiutare in un qualche modo a conoscere meglio un mondo tanto lontano. Mm-hmm. Da Parigi poi dopo si è spostato anche in altre città europee e così ha iniziato a girare, a incontrare un sacco di altri luoghi. Roberto, è un mondo così lontano? No, assolutamente. Sembra molto lontano perché fisicamente lo è, ma non è così, è molto più vicino di quanto sembra. La cosa stupefacente è il fatto che quando questi scrittori incontrano gli studenti ci sono molti più punti di contatto che punti di lontananza, a livello sociale, politico, letterario. È un incontro che avvicina e supera le frontiere in modo abbastanza straordinario. Tu sei italiano, scrivi in portoghese e appunto con uno sguardo al Brasile. Quanta Europa porti nei tuoi testi? Nei miei testi c'è tutta l'Europa che io porto con me, nel senso che quando io scrivo, non scrivo in portoghese, ma non per raccontare del Brasile, bensì per tentare di raccontare come si può vedere il mondo dal punto di vista del Brasile attraverso la lingua portoghese, che è sicuramente una lingua marginale rispetto alle altre, ma è un punto di vista interessante. Raccontare l'Europa dal Sud America ci permette, forse può permetterci, di capire qualcosa in più e di trovare magari delle parole per dire cose che noi facciamo fatica a dire. Come si intitola il tuo ultimo libro, che è quello che poi stai presentando al festival? Il libro si chiama Felicidade Submersa, che tradotto in italiano sarebbe Felicità Sommersa. Uh-huh. È un libro di poesie, di dialoghi e di racconti. Beh, coglierei l'occasione anche per entrare un po' nella sonorità portoghese. Ce ne leggi un piccolo brano? Assolutamente, vi leggo la poesia che dà il titolo all'opera. Sì? Si chiama appunto Felicità di Submersa. Esta felicità di submersa, vento che acarizza il grão, luz che entra per la fenda, magma che impurra crosta. E questa è la felicità sommersa di Roberto Parmigiani. E leggevo che in Portogallo presenterai anche un libro per ragazzi invece. Assolutamente, si chiama Il mondo di Arturo, è pubblicato solo in Brasile per ora, ma speriamo che possa arrivare in Italia. E parla di un, tratta il tema della dislessia in un qualche modo, perché racconta di un bambino dislessico che fa un, ha un po' di problemi nel, nell'andare a scuola e tenta, trova delle soluzioni molto interessanti. Non dico altro, così rimane la curiosità. Dobbiamo prima imparare il portoghese, poi riusciremo anche certo. a soddisfare questa curiosità. Un'ultima domanda, Roberto, ma c'è più curiosità dei brasiliani verso gli europei o degli europei verso i brasiliani? Sicuramente gli europei sui brasiliani, che hanno tanti stereotipi da superare e da affrontare. Uh-huh. Insomma, il tuo lavoro va anche in questa direzione. Esatto, esatto, esatto. Diamo un sito internet, c'è del festival? C'è un sito che è primaveraletteraniabrasiliana.com, in francese però, che nella mia pronuncia pessima è printempslittéraire-brasilien.com, e lì si possono trovare tutte le informazioni. Link che come sempre pubblichiamo sui nostri social, sia Facebook sia Twitter, così come tutti gli altri. Grazie davvero Roberto, buon festival. Grazie mille a voi, ciao ciao. Europost-it. Tirocini presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa. Il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa, che promuove il dialogo e la cooperazione tra Europa, Mediterraneo del Sud e Africa, cerca tirocinanti per periodi di 3 o 5 mesi. Tra i compiti assegnati vi sono la ricerca, la preparazione di attività, la redazione di rapporti e minute e l'assistenza nel lavoro quotidiano del centro. Possono candidarsi tutti i cittadini europei che abbiano portato a termine almeno 3 anni di studi universitari. Le domande per i periodi di tirocinio tra luglio e dicembre 2017 dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2017. Il sito è quello del Consiglio d'Europa, hub.coe.int, sul quale sarà necessario selezionare il centro nord-sud dal menu Democrazia per poi recarsi nella sezione Tirocini. Questi sono i nostri Europost-it e come sempre vi invito a segnalarci le vostre iniziative, i progetti europei a cui partecipate, tutto ciò che riguarda l'Europa. Potete farlo attraverso il nostro indirizzo email l'altraeuropa@radio24.it oppure Federico Taddia, Twitter e Facebook. Lì trovate tutte le coordinate per entrare in contatto con noi. Un grazie a Miriam Lucchetti, a Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata, Paolo Corleoni oggi alla parte tecnica, e come sempre grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è alla prossima settimana. Ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.